2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. In questa puntata ci occuperemo di sanità digitale, poi parleremo di quanto l'Italia e soprattutto gli italiani sono digitali. Avremo anche alcune sorprese. Ci occuperemo di un'applicazione che ci permette di usare la carta d'identità elettronica online e poi parleremo anche di crowd testing. Nel mondo della tecnologia ci sono varie declinazioni della parola crowd: crowdsourcing, crowdfunding, crowd testing. È una modalità per fare test sulle applicazioni e di questo parleremo tra poco. Adesso, come sempre, iniziamo da alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Dopo la sperimentazione effettuata in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, da lunedì 15 giugno l'app italiana per il contact tracing Immuni sarà operativa su tutto il territorio nazionale, quindi significa che i sistemi sanitari saranno abilitati a sbloccare il codice nel caso una persona che usa questa applicazione e risultasse positiva al coronavirus voglia far scattare il meccanismo per avvisare tutte le persone con cui è stato a contatto, o meglio, è stato a contatto giudicato a rischio dall'applicazione. Ricordiamo che questa, come tutte le azioni sull'applicazione Immuni, sono volontarie, non c'è nulla di obbligatorio. La prossima settimana faremo ancora un piccolo approfondimento su Immuni perché ci sono ancora alcuni dettagli da chiarire, molti ci stanno facendo domande, allora magari la prossima settimana torneremo sul tema. A proposito di applicazioni, l'Italia è uno dei primi paesi, dopo Svizzera e Lituania, a pubblicare un'applicazione di questo genere, un'app per il contact tracing basata sullo schema, sulle tecnologie messe a disposizione da Apple e da Google. La Svizzera ha testato l'applicazione finora su un gruppo ristretto di persone e dalla prossima settimana dovrebbe essere disponibile per tutti i cittadini svizzeri. Per quanto riguarda invece l'app lituana, l'autorità per la privacy ha sospeso l'uso di questa applicazione per alcuni problemi legati al trattamento dei dati personali. Pochi giorni fa è stata rilasciata l'app polacca. L'applicazione tedesca sviluppata da Deutsche Telekom e SAP dovrebbe arrivare la prossima settimana, così come quella del Giappone. Poi ci sono altre applicazioni che sono già state rilasciate, sono già utilizzate, ma non sono basate sullo schema Apple-Google. Abbiamo recentemente parlato dei rischi e dei problemi tecnologici ancora non risolti, come ad esempio gli errori legati ai sistemi di riconoscimento facciale, una puntata un paio di settimane fa, quindi se l'avete persa vi consiglio di riascoltarla. Bene, negli Stati Uniti c'è stato un susseguirsi di annunci e prese di posizione questa settimana, negli ultimi giorni. IBM, ad esempio, ha annunciato che uscirà dal business dei sistemi di riconoscimento facciale e chiede al Congresso di intervenire e regolare il settore per evitare sistemi di sorveglianza di massa, sistemi che possano essere anche strumento di discriminazioni razziali, perché, come dicevo, questi sistemi ancora oggi fanno degli errori. Anche altre aziende come Amazon e Microsoft hanno preso posizioni simili, chiedendo al Congresso di decidere una linea da seguire. Queste aziende in particolare hanno detto: noi non è che usciamo dal business, però prima di mettere a disposizione queste tecnologie vorremmo che il Congresso prendesse una posizione. La prossima settimana, martedì, la Cina manderà in orbita un satellite che completerà la costellazione Beidou, il quarto sistema di posizionamento globale dopo il GPS americano, il GLONASS russo e l'europeo Galileo. Quindi i cinesi diventano indipendenti per quanto riguarda il sistema di posizionamento globale, il loro Beidou. Parliamo della giapponese Honda, che ha subito un attacco informatico che ha costretto a sospendere l'accesso in alcune sue sedi in giro per il mondo, anche i dipendenti, nonché interrompere la produzione in alcuni stabilimenti. Ogni settimana ci sono vari annunci di attacchi informatici ad aziende, anche questa settimana ci sono state altre aziende che hanno subito attacchi, ad esempio Nintendo o anche Enel ha subito un attacco informatico, ma insomma stiamo parlando di cose minori. Invece quello di Honda pare sia il caso più eclatante della settimana. Infine, una notizia che riguarda il mondo dei videogiochi, dei videogame. Sony ha svelato il design della PlayStation 5, PlayStation 5, che arriverà, diciamo, verso Natale, in due versioni. Questa è una novità, l'erede della versione 4, della PlayStation 4 attuale, quindi la classica, con ovviamente tutti gli aggiornamenti del caso, ma poi una PlayStation 5 cosiddetta Digital Edition, senza lettore Blu-ray, ma che userà la rete internet e in particolar modo il PlayStation Store per scaricare i giochi. Adesso parliamo di sanità digitale. Se ne è parlato molto, soprattutto in questo periodo, vista l'emergenza Covid-19, e anche in prospettiva molti hanno capito e compreso quanto dovrebbe essere importante investire e fare attenzione a tutta al processo di digitalizzazione della sanità all'interno degli ospedali, ma in generale per connettere tutto il sistema e renderlo più efficiente. Allora, a che punto è il grado di adozione dei sistemi digitali nel settore sanitario? Questa settimana sono stati pubblicati alcuni nuovi dati dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano. Chiara Sgarbossa è il direttore dell'Osservatorio. Benvenuta a 2024. Grazie mille. Quando parliamo di sanità digitale, a che cosa facciamo riferimento? Facciamo riferimento a tutti i servizi digitali, alle applicazioni che vengono messe a disposizione del paziente per la cura, l'informazione e l'accesso ai servizi della sanità, ma anche ai medici all'interno delle aziende sanitarie, come cartella clinica elettronica piuttosto che telemedicina, o agli stessi medici di famiglia che devono utilizzare anche in questo caso strumenti per interagire con i pazienti, sia da piattaforme consumer sia piattaforme effettivamente dedicate alla comunicazione col paziente. Se dovessimo dare un giudizio generale su il nostro approccio come sistema paese, poi ovviamente capisco che non è semplice visto che la sanità poi è regionale per buona parte, però se volessimo dare un giudizio generale dal vostro osservatorio su come l'Italia è in linea o meno con gli standard internazionali per quanto riguarda l'adozione della digitalizzazione in sanità, quale pagella ne esce? Allora, noi dall'ultimo dato che avevamo rilevato sulla spesa per la sanità digitale, avevamo appunto rilevato lo scorso anno rispetto al 2018, abbiamo scoperto che in realtà siamo un po' indietro rispetto agli altri paesi europei per quanto effettivamente spendiamo in sanità digitale. Sono 1,3 miliardi circa di euro, circa l'1% appunto della spesa sanitaria, mentre altri paesi anche a livello europeo arrivano a cifre molto più alte, anche verso il 4-5%. Quindi diciamo questo è un indicatore di quanto effettivamente non stiamo forse ancora investendo abbastanza su questo fronte. Al di là di quello che investiamo, siamo veramente in forte e preoccupante ritardo? Preoccupante ritardo non mi sentirei di dirlo, più che altro siamo ancora all'inizio del percorso che ci porta verso la digitalizzazione della sanità, quindi negli ultimi anni siamo andati un po' a rilento nello sviluppare soluzioni a livello aziendale, a livello regionale, nell'ambito appunto della sanità digitale, con alcune aziende sul territorio italiano che effettivamente stanno sviluppando soluzioni all'avanguardia, anche arrivando a sviluppare sistemi di intelligenza artificiale o comunque cartelle cliniche elettroniche che effettivamente consentono di digitalizzare processi sanitari, altri casi invece che vedono ancora la presenza di carta negli ospedali. E quindi il problema dell'Italia è che abbiamo una situazione di digitalizzazione molto a macchia di leopardo, con alcune regioni, alcune aziende molto avanti e altre invece ancora molto indietro. A proposito di aziende molto avanti e di servizi innovativi, dal vostro punto di vista quali sono quelli più nuovi e che possono rendere più competitivo, più efficiente e più efficace soprattutto il sistema? Allora, li distinguerei sia, diciamo, i servizi realmente innovativi, quindi gli ambiti di frontiera, che come dicevo potrebbe essere quello dell'intelligenza artificiale, quindi l'utilizzo di intelligenza artificiale per supportare le decisioni del medico, quindi ad esempio analizzando le immagini il medico può scoprire che da un'immagine c'è un problema per il paziente, quindi un tumore o un altro tipo di malattia. In altri casi in realtà non sono applicazioni innovative come quella della telemedicina, ma è innovativo il fatto che vengano introdotte in azienda. Quindi su questo fronte effettivamente durante l'emergenza sono nate molte iniziative riguardanti la telemedicina, dal telemonitoraggio alla televisita, e non è tanto un'innovazione di tecnologia quanto un'innovazione di introduzione e modello organizzativo. Cioè lo si conosceva già, esatto. Ma adesso si tenta di farlo, no? Esattamente. Ma quanto? Allora, durante l'emergenza in realtà sono nate, sempre come dicevo prima, iniziative un po' sporadiche in alcune realtà che magari stavano già pensando a questo tipo di applicazioni e l'emergenza ha dato un po' la spinta a introdurle. Quello che è interessante vedere è l'interesse per i medici rispetto a questo tipo di applicazioni, che fino appunto prima dell'emergenza erano considerate applicazioni poco realizzabili. Questo era dovuto al fatto che non esistevano fino ad oggi delle tariffe che consentissero alle aziende di offrire questo tipo di prestazioni in telemedicina allo stesso modo di una prestazione di persona, e invece in alcune regioni, come ad esempio la regione Veneto piuttosto che in Toscana, sono state definite le tariffe per riconoscere questo tipo di prestazioni. Se fino ad oggi c'era questo scoglio, l'emergenza ha fatto in qualche modo emergere la necessità di eliminare questo scoglio, e quindi effettivamente i medici sono proiettati verso un utilizzo futuro molto elevato. Quindi ad esempio, giusto per fare un esempio, il teleconsulto, che è la possibilità del medico di chiedere un consulto per via appunto digitale a un altro medico, che sia un medico specialista nel caso dell'MMG, tra MMG, questo viene, diciamo, c'è un interesse dell'88% da parte degli MMG, quindi dei medici di famiglia, del 64% degli specialisti. Piuttosto che il telemonitoraggio, che invece consente al medico di monitorare i parametri del paziente a distanza, quindi questo vale soprattutto per i cronici, abbiamo un interesse che arriva al 74% tra i medici di famiglia e al 47% tra gli specialisti. Quindi è un interesse, una volontà da parte di questi attori all'utilizzo di queste applicazioni che hanno visto essere ovviamente in questa fase necessari, ma che anche in un futuro potrebbero ridurre molto alcuni costi e tempi e facilitare la relazione con il paziente. Quindi voi notate che l'interesse dei medici, la disponibilità dei medici sta aumentando, cosa che forse prima rallentava un po' questo fenomeno. Due domande, una rispetto al mercato, cioè se sul mercato esiste un'ampia offerta di sistemi digitali per la medicina, quindi da quel punto di vista secondo voi non ci sono problemi, e un'altra domanda è sul paziente, cioè se al paziente stanno bene queste cose, cioè avere magari la consulenza del medico a distanza, avere un sistema di telemedicina che lo controlli o altro. Allora, il tema offerta non è un problema. Effettivamente anche su questo l'abbiamo anche chiesto ai medici, se questo fosse una barriera all'utilizzo di queste tecnologie, e in pochissimi ce l'hanno indicato, quindi circa un 10% ha indicato la barriera mancanza di offerta come barriera all'utilizzo di questi strumenti di telemedicina, quindi l'offerta c'è e c'è da un bel po' di anni. Lato invece cittadini, abbiamo visto tramite il questionario sviluppato insieme ad Oxa Pharma che circa un cittadino su tre vorrebbe fare una televisita con il proprio MMG e il 29% con un medico specialista. Quindi comunque c'è un interesse verso questo tipo di applicazione, interesse che è soprattutto nelle fasce della popolazione che lavorano e che quindi dovrebbero prendersi permessi per andare a effettuare le visite di persona, e che in molti casi potrebbero evitare, diciamo, di prendere permessi per essere visitati direttamente da casa o in mobilità nel momento in cui sono disponibili. Quindi diciamo che c'è la volontà, ovviamente c'è anche il tema del fatto che non tutte le visite possono essere effettuate da remoto, quindi questo deve essere anche chiarito ai cittadini stessi, affinché poi si possa offrire al cittadino l'alternativa della televisita, della telemedicina, solo nei casi in cui questo ovviamente è possibile. Ok. Esempi di applicazione digitale che vi hanno particolarmente colpito nel vostro lavoro di analisi all'interno dell'osservatorio? Allora, abbiamo sempre sul fronte più innovativo di intelligenza artificiale, abbiamo rilevato alcuni casi di utilizzo di questi strumenti innovativi per migliorare la cura del paziente e far sì che la cura sia sempre più personalizzata. Abbiamo in qualche modo censito alcuni casi su questo fronte, come può essere il caso della ASST di Mimercate, dove c'è un approccio all'utilizzo dei dati sul paziente che avviene, diciamo, in modo sistematico e a livello, diciamo, strategico e non tanto di singola applicazione, e questo consente di raccogliere una serie di dati sul paziente e utilizzare questi dati per migliorare la cura al paziente e supportare il medico nelle decisioni. Quindi utilizzo di dati in formato digitale che ovviamente devono essere raccolti tramite cartelle cliniche elettroniche, e quindi questa è la base poi dell'utilizzo dei dati in ambito sanità, e utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale che lavorano su questi dati, su altri dati del paziente, e che aiutano poi a sviluppare una cura personalizzata sul singolo paziente. Altre cose che vi, che ne so, startup, cose del genere? Allora, sul tema altre applicazioni innovative che però riguardano ad esempio le terapie digitali, è il fatto ad esempio di utilizzare delle applicazioni, delle app per fare telemonitoraggio. Quindi questo è il caso ad esempio della provincia autonoma di Trento, che è sicuramente una delle esperienze più innovative, dove per la prima volta in Italia è stata prescritta l'applicazione, quindi l'applicazione di telemonitoraggio, in questo caso per pazienti diabetici, viene prescritta al paziente, e il paziente può in qualche modo tenere monitorata la propria situazione clinica e comunicare con il proprio medico specialista attraverso l'applicazione. Quindi qua non è tanto un'innovazione di tecnologica, ma quanto di modello organizzativo e di processo, perché in questo caso il paziente non gli viene prescritto un farmaco, ma gli viene prescritta un'app. E questo è un po' il concetto delle terapie digitali, quindi delle applicazioni, delle soluzioni digitali che vengono in qualche modo affiancate a una terapia o in alcuni casi sostituite a una terapia e che consentono di migliorare ulteriormente la cura e la terapia. Quindi in Italia non si stanno ancora diffondendo, anche in questo caso mancano un po' le basi normative affinché queste terapie digitali si diffondano, ma a livello internazionale invece, come ad esempio in Germania, è stato dato un po' il via e è stata riconosciuta la terapia digitale come terapia che effettivamente si può prescrivere al paziente. Grazie a Chiara Sgarbossa per essere stata con noi, a presto. Grazie, a presto. Prima Chiara Sgarbossa parlava di Digital Therapeutics, abbiamo dedicato qualche mese fa più di una puntata alle terapie che si basano su un'applicazione, e capite che la qualità di queste app deve essere estremamente elevata, visto che stiamo parlando di terapie nel mondo della sanità. Ma in generale, in un mondo in cui molti servizi sono sempre più spesso erogati online, le applicazioni sullo smartphone diventano uno dei canali privilegiati di contatto con i cittadini. Allora, per migliorarne la qualità, la fase di test è molto importante, lo è sempre stato, ma ci sono anche strade nuove, modalità nuove. Una che ricorre ad esempio ad un elevato numero di persone, si chiama crowd testing e ne parliamo con Luca Manara, cofondatore e CEO di UpQuality, una startup italiana che basa la propria attività sul crowd testing e che recentemente ha ricevuto un finanziamento di 3,5 milioni di euro, che è un finanziamento per una startup italiana molto importante, un finanziamento guidato da uno dei principali fondi di investimento in Italia in venture capital, che è P101. Manara, benvenuto a 2024. Grazie. Partiamo da proprio questa parola che definisce la vostra attività, crowd testing, quindi test su applicazioni, perché voi fate test su applicazioni fatte dalla folla, si tradurrebbe così, ma adesso ti lascio spiegare che cosa fate, qual è la vostra attività. Sì, sì, quello che noi facciamo è crowd testing, come giustamente l'hai nominato tu. Noi testiamo quindi software che sia di varia natura, quindi applicazioni mobile piuttosto che e-commerce o portali, quindi software di varia natura, tramite il potere del crowd, la forza del crowd, ovvero delle persone iscritte a questa piattaforma che vengono ingaggiate e remunerate per testare il software verso gli utenti finali. Quindi vengono pagati questi tester iscritti a questa piattaforma. Le persone che fanno questo test, poi vediamo e cerchiamo di capire che tipo di test vengono effettuati, devono essere esperte, e se sì, che tipo di competenze devono avere? Allora, tutti si possono iscrivere alla piattaforma, quindi è libera iscrizione, quindi non è richiesta un'esperienza specifica, ma l'esperienza viene creata anche dagli strumenti che sono stati sviluppati in questa piattaforma. Quindi, per esempio, c'è quella che noi chiamiamo una testing university nella piattaforma, in cui spieghiamo creiamo competenze nel crowd, piuttosto che abbiamo strumenti per verificare la qualità di quello che fanno queste persone nelle fasi di testing. Sono experience point, per esempio, quei strumenti di gamification per guidarli nel processo di test. Quindi non servono competenze specifiche, ma le competenze crescono quando una persona si iscrive in poi. Ecco, che tipo di test vengono effettuati? Quindi immagino test soprattutto di usabilità o fino anche a test di cyber security, no, perché in quel caso forse servono delle competenze piuttosto profonde, piuttosto forti. Allora, siamo partiti facendo test puramente funzionali, cioè l'obiettivo, l'idea iniziale era: ma perché un'azienda nostra che deve sviluppare software deve comprare degli smartphone per testarne il funzionamento su questi smartphone, e invece non posso utilizzare gli smartphone degli utenti che già posseggono questi smartphone? Quindi siamo partiti da questo concetto, e quindi i primi test era che funzionassero bene le applicazioni sugli smartphone degli utenti, diversi smartphone, diverse tipologie di software, eccetera. Poi abbiamo inserito i test di usability, quindi come verifichiamo l'esperienza d'uso che gli utenti hanno nell'utilizzo di un'applicazione mobile, nell'utilizzo di un e-commerce, eccetera. E successivamente abbiamo cominciato a inserire diverse tipologie di test. La cyber security che tu hai nominato è un potenziale sviluppo della tecnologia crowd testing. Ancora non ci siamo, ma stiamo pensando di inserirlo. Ovviamente dovremo anche lavorare molto sulle competenze di questi utenti. Ti faccio una domanda, ma in realtà ti chiedo una considerazione per far capire a chi ci ascolta quanto importante è nell'economia di oggi, nella vita, nel mondo di oggi, la qualità di un'applicazione. Ci sono aziende o servizi che si basano o solo su un'applicazione per smartphone, o comunque per i quali l'applicazione sullo smartphone è un elemento molto importante, proprio come punto di contatto. Molto spesso tra le aziende, non solo in Italia, non c'è forse la consapevolezza dell'importanza della qualità. Ci sono aziende a livello internazionale che hanno, e la cosa stupisce, ma non dovrebbe più stupire, centinaia di sviluppatori che si occupano dell'applicazione, che va anche continuamente aggiornata. Ci dici qualcosa da questo punto di vista? Sì, sì, un punto molto importante. I canali digitali mobile o web sono diventati centrali nel rapporto con i propri clienti per tutte le tipologie di aziende. I nostri clienti, che sono tipicamente grosse corporate, investono molto su questi concetti. anche nella situazione attuale in cui si remotizza un po' tutto, no? Quindi il retail, cioè il Sedunga di turno, sta investendo tantissimo sulla parte digitale perché i propri clienti acquistano attraverso questi e-commerce, e la qualità quindi di questi punti di contatto è estremamente importante, la velocità con cui un utente riesce a capire quello che può o non può fare, le informazioni vengono passate in maniera chiara, le possibilità per l'utente di interagire con anche dei dettagli sempre più raffinati, sempre più approfonditi, i sistemi di pagamento che devono essere sempre più anche quelli efficaci e rapidi. Per darti qualche indicatore, per esempio, da una famosa ricerca di McKinsey di qualche anno fa, di questa grossa società di consulenza, chi investe in user experience, società che investono in user experience, hanno la possibilità di avere dei ritorni sull'economia, quindi proprio sul fatturato, anche doppio rispetto alle aziende che non investono nello stesso settore. Quindi è diventato un fattore critico di successo per chi vuole a raggiungere i propri clienti attraverso questi canali digitali. E forse uno dei problemi che bisogna affrontare è la frammentazione soprattutto del mondo Android. Uno sviluppa un'applicazione e effettivamente dovrebbe fare test su decine, se non centinaia, forse centinaia sono troppi, ma mi dirai tu, di smartphone diversi, con display diversi, con sistemi operativi che sì, sono sempre Android, ma sono delle derivazioni o comunque che hanno qualche modifica. Forse questa è una delle difficoltà. Sì, questa è una difficoltà. Hai toccato un paio di punti importanti. Il crowd testing è nato nel 2008 in America proprio per affrontare il tema della frammentazione Android. A un certo punto le aziende in Silicon Valley, che creavano applicazioni, cominciavano ad avere questo problema, dovevano testare tantissimi diversi device e i costi di gestione di questi device, anche di manutenzione all'interno della propria azienda, cominciavano a diventare alti, sia come costi vivi che costi di gestione nel tempo. Quindi hanno pensato a usare questa tecnologia a farli testare i propri utenti. Ancora ad oggi è ancora sempre più importante perché abbiamo nuovi device che arrivano continuamente, nuovi sistemi operativi che si aggiornano, device cinesi di diversa natura, coreani. Quindi chi sviluppa software ha questa difficoltà nel verificare che tutto funzioni bene su diversi hardware. E questo mentre nel tempo, da internet, sui browser la cosa è diventata più efficiente, sui device mobile è più recente, quindi è ancora difficile affrontare questa problematica. Quindi sì, è un tema che nasce da lì. I diversi device, tra l'altro, come ben hai detto, cambiano la dimensione dello schermo, quindi si passa da schermi molto piccoli a schermi molto grandi. È un continuum ormai, no? Da schermi piccolissimi a schermi ai browser, quindi a schermi proprio grossi come tutto il PC. Quindi l'experience deve scalare, no? In maniera corretta su tutte queste diverse dimensioni di interfacce, l'utente in tutto questo non si deve perdere. Quindi è molto complesso, tutto questo processo di verifica è molto complesso. Una volta che la persona che si candida a diventare un tester, quindi una persona che fa test per voi, come avviene il processo di segnalazione e soprattutto dopo che questa persona vi ha fatto tutte le sue segnalazioni? Voi accogliete tutto, cioè come avviene il processo per poi fare delle segnalazioni finali agli sviluppatori dell'applicazione? È un processo che abbiamo raffinato nel tempo. Quando siamo partiti era molto molto semplice e venivano raccolte tutte le segnalazioni. Ad oggi in realtà la piattaforma è una piattaforma che è quasi una piattaforma di collaboration su cui lavorano sia i tester, queste persone che provano le applicazioni, ma anche il nostro personale interno della società che vede arrivare tutte le segnalazioni, e c'è un processo di verifica, di controllo, di accettazione, di review di ogni segnalazione, anche molto molto articolato, che si basa su delle policy definite, e quindi noi riusciamo a standardizzare quello che è una massa di dati che ci arriva dal crowd. Riusciamo a creare poi una serie, a raffinarlo in modo tale che questi dati si trasformino in informazioni utili standard che poi vengono caricate su sistemi di ticketing dei nostri clienti. Quindi è un processo che poi adesso è molto raffinato, molto articolato, ma permette di eliminare quello che è il rumore che possono arrivare da tante segnalazioni dagli utenti e generare, trovare quelle che sono solo le informazioni utili allo sviluppatore, al responsabile testing dei nostri clienti e così via. Quindi è un processo molto articolato. I tester hanno un software, diciamo, di controllo che vi mette in connessione tra voi e il suo smartphone, oppure il processo di segnalazione avviene tramite altri strumenti, magari non sullo smartphone direttamente? No, il processo di segnalazione avviene sullo smartphone attraverso, ad oggi è sostanzialmente un sito web mobile dove loro procedono a fare queste segnalazioni. In futuro stiamo sviluppando delle applicazioni mobile che distribuiamo a questi tester, quindi sotto loro accettazione installeranno sui propri smartphone, che ci permetteranno di essere ancora più efficienti. Ci permetteranno per esempio di andare a identificare delle condizioni al contorno in cui si sta trovando il software in quel momento, come per esempio la qualità della rete a cui sono connesse, piuttosto che il livello di batteria, piuttosto che la posizione geografica in cui stanno eseguendo il test. Ovviamente tutto questo è sotto i tester dovranno accetteranno e sarà tutto reso trasparente nei loro confronti su quali che sono queste condizioni, no, in cui che dovranno segnalarci, però in futuro svilupperemo anche delle applicazioni mobile proprio per i nostri test. Certo, immagino che si possano anche automatizzare alcuni processi. Sì, ecco, una cosa importante in tutto questo è che il crowd testing tanta automatizzazione deve essere sviluppata, perché bisogna fare efficienza. E quindi tanti processi abbiamo automatizzato tanti processi e continueremo a farlo, in modo tale da fare sempre più efficienza, diminuire i costi di gestione e aumentare la qualità di quello che produciamo. Quindi, quanti siete voi in azienda e quanti sono i tester? I tester ad oggi sono circa 15.000, sono i tester iscritti alla nostra piattaforma in Italia, più stiamo sviluppando anche l'estero, quindi stiamo facendo recruiting di tester anche all'estero. L'obiettivo è arrivare a 150.000 tester iscritti in 2-3 anni. Noi in azienda siamo in realtà molti meno, siamo circa una ventina in questo momento. Recentemente però è entrato un fondo di investimento che ci permetterà di assumere ulteriore personale, soprattutto sviluppatori, per arrivare a essere circa un'ottantina in 3 anni. Però ci piace dire che siamo in questo momento, noi siamo 15.000 e 20, perché i tester per noi sono un po' come un'estensione, no, di un team interno, è un po' sono parte del nostro team. Certo. Una domanda, magari non è, come dire, non c'è una risposta, però quanto guadagnano i tester? Perché questo è un lavoro di collaborazione, cioè non sono vostri dipendenti questi 15.000. Non sono nostri dipendenti, quindi è una forma di collaborazione non continuativa, per cui noi gli chiediamo se vogliono partecipare alle nostre campagne di test, e qualora loro hanno il tempo, la volontà, la voglia, il device corretto, insomma, secondo diversi parametri di selezione, decidono di partecipare e gli viene anche detto quanto verranno pagati. Mediamente un tester può guadagnare qualche centinaio di euro al mese, quindi non è un'attività, e noi su questo siamo molto chiari con i tester, non deve essere il primo loro lavoro, okay? Deve essere un qualcosa che integra quello che già fanno. Molti dei nostri tester sono già tester e lo fanno per lavoro in altre aziende, poi lo fanno per noi come modalità di freelancing, però è, diciamo, il rapporto tra quanto guadagnano e le ore che devono usare è molto alto, cioè non li paghiamo bene, questo perché è importante la qualità di quello che per noi fanno. A noi dobbiamo investire molto sulla qualità di quello che loro fanno, perché la qualità di quello che loro fanno si traduce in qualità anche per noi verso i nostri clienti. Quindi possono anche arrivare dai guadagni sostanziali. C'è chi si paga le vacanze, c'è chi si paga una nuova Smart TV, questo vabbè, tipo quello di... che vuole, insomma. Sì, quello che vuole. Se li può mettere anche in un fondo di investimento, no? Se li può mettere anche in un fondo di investimento. Alcuni dei nostri tester ci mandano proprio le foto di quello che si acquistano con le nostre attività. C'è molta interazione tra di noi. Senti, queste applicazioni sono già pubblicate sugli store o invece sono applicazioni ancora da pubblicare e quindi i tester vedono cose in anteprima? Allora, è molto importante questo perché all'inizio testavamo già quello che era sullo store perché era più semplice tecnologicamente farlo. Ad oggi, con l'evoluzione della nostra tecnologia, riusciamo a testare fin dalla fase prototipale di creazione di un prodotto. Quindi, fin dai prototipi disegnati da un designer, da un grafico, possiamo già testarli sulla nostra piattaforma. Quindi vedono anche cose in anteprima. Certo è che dobbiamo controllare questo processo, quindi i tester che partecipano a queste campagne sono tester che siglano con noi dei mini contrattini, no? Per tenere sotto controllo quello che, per fargli capire che stanno testando qualcosa in anteprima, per tenere sotto controllo i dati, per evitare che ci siano delle fuoriuscite di dati. Però sì, testano cose anche in anteprima, anche in fase prototipale. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda quelli che non sono vostri tester, quindi non sono le persone che sono collegate al vostro network, ma se una persona che sta usando un'applicazione volesse fare una segnalazione, quindi una segnalazione una tantum, voi raccogliete anche quelle segnalazioni o sarebbe troppo complicato? No, per adesso no, per adesso si organizza in un ciclo di test, in una campagna di test, quindi tu puoi segnalare soltanto nella finestra di tempo che noi diamo ai tester per poter segnalare qualche problema. La segnalazione libera, diciamo, ancora non l'abbiamo, è un processo che ancora non abbiamo ingegnerizzato, quindi è una cosa che è nella nostra pipeline di sviluppo, ma ancora ad oggi non è possibile farlo perché sarebbe troppo costoso gestire anche tutte le dinamiche che si possono creare, quindi stiamo un po' controllando come ingegnerizzare questo processo, in futuro potremmo rilasciarlo, ma ancora non siamo estremamente convinti che sia una cosa efficace. Luca, grazie per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro, a presto. Grazie, grazie anche a voi, grazie a te e a presto. Adesso ci fermiamo, per noi c'è una breve pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024, vi ricordo che il nostro programma va in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica in replica, una breve replica alle 13:10, ma come sempre trovate una ricca ed estesa versione podcast, il nostro super podcast online sul nostro sito internet attraverso la nostra applicazione, l'applicazione di Radio 24, la nuova applicazione delle radio italiane Radio Player Italia, sia per iOS che per Android, oppure le principali piattaforme audio a partire da Spotify e tutte le altre. Come sempre vi ricordo che potete scrivermi, io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it oppure potete utilizzare Facebook, Twitter o LinkedIn. Ringrazio Paolo Corleoni ed Andrea Roccabella per la parte tecnica per realizzare questa puntata, Laura Faggin in redazione. Adesso parliamo della carta d'identità elettronica perché questa carta d'identità, che è già distribuita in 15 milioni, ci sono 15 milioni di cittadini che hanno la carta d'identità elettronica, ha la propria applicazione. Abbiamo parlato di applicazioni fino a poco fa ed esiste anche CIE ID, cioè CIE sta per carta d'identità elettronica ID. È stata da pochi giorni pubblicata anche la versione per iPhone dopo quella di Android e per sapere che cosa serve, a cosa serve questa applicazione, ci siamo messi in contatto con Stefano Imperatori, che è il direttore dello sviluppo di soluzioni integrate dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che realizza la carta d'identità elettronica. Sì, l'app apposta che si chiama CID, che è fruibile sugli store della Apple e di Android, permette di utilizzare la carta d'identità elettronica per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Quindi attraverso la funzionalità della carta d'identità elettronica come identità digitale è possibile accedere con il massimo livello di sicurezza possibile a livello europeo a tutti i servizi della pubblica amministrazione che fanno uso della carta d'identità elettronica. Quindi non sostituisce la carta d'identità nella vita di tutti i giorni, diciamo nella vita offline, serve per accedere a servizi online? e l'app CED serve ad accedere ai servizi online. Sì, esattamente. Sostituisce quindi, o comunque si affianca all'ormai famoso e tanto discusso Speed? Sì, in realtà quello che sta succedendo in questo momento è che ci sono molte amministrazioni che permettono l'accesso con lo SPID e non tutte le amministrazioni permettono l'accesso con la carta di identità elettronica. Tanto per fare un esempio, in questo momento l'INPS permette l'accesso alla carta di identità elettronica e anche con lo SPID, però non tutte le amministrazioni, diciamo, permettono l'accesso a tutti e due gli strumenti. Che tipo di telefono è necessario utilizzare? Perché immagino che non tutti i telefoni possono essere utilizzati per questo tipo di servizio. E, allora, in questo momento tutti i telefoni che hanno un dispositivo NFC, quindi la maggior parte, che sono i dispositivi che permettono di leggere apposta una carta d'identità o una smart card con un chip contactless, e fondamentalmente tutti i telefoni di ultima generazione. E gli iPhone invece, tutti gli iPhone a partire dall'iPhone 7 in poi. Facciamo un esempio di come funziona. Io ho in mano una carta d'identità elettronica, accoppio con il mio smartphone, quindi utilizzando l'applicazione, ho scaricato l'applicazione, se il mio telefono ovviamente è tra quelli abilitati, una volta che io ho accoppiato la mia carta d'identità elettronica, quindi l'ho virtualizzata all'interno dell'applicazione, come avviene poi il passo successivo? Sì, una precisazione, diciamo, non è che l'app CED virtualizza la carta di identità elettronica, permette di utilizzare in sicurezza la carta di identità elettronica. Quindi c'è un processo che avviene soltanto all'inizio con la registrazione, in cui deve essere inserito ovviamente il PIN della carta di identità elettronica, viene accoppiata la carta di identità elettronica al dispositivo e da quel momento in poi è possibile utilizzare il telefono. Ora, il modo più semplice per utilizzare questa applicazione è o connettendoci direttamente dal telefonino a un servizio online di un'amministrazione, oppure utilizzando, diciamo, contemporaneamente il computer per poter accedere al sito e il telefonino utilizzandolo come una sorta di lettore della carta di identità elettronica, con un meccanismo molto simile a quello che molti sistemi di home banking presentano, dove apposta vengono utilizzati contemporaneamente il computer per poter accedere alle informazioni e il telefonino, diciamo, per dare quegli elementi di sicurezza per l'accesso. Si potrebbe immaginare un uso dello smartphone, come carta di identità, cioè una volta che io ho caricato la mia carta di identità, ho virtualizzato, certo, lei ci ha spiegato che in realtà non è una virtualizzazione, però possiamo immaginare, così come io posso caricare la mia carta di credito o un'altra carta sul mio smartphone, è possibile pensare ad inserire sullo smartphone, quindi portarmi in giro solo lo smartphone, la carta di identità elettronica? In realtà, diciamo no, perché la carta di identità elettronica, proprio per le caratteristiche con cui è stata realizzata, contiene degli elementi di sicurezza che ha soltanto la carta di identità elettronica all'interno del chip. Quindi, quello che si può fare attraverso quest'app CED è utilizzare in sicurezza la carta di identità elettronica e tutte le volte che io volessi fare apposta un accesso in sicurezza su un sito, devo comunque a un certo punto andare a dimostrare la presenza della carta di identità elettronica, ma questo è insito proprio all'elemento che le dicevo in precedenza, che la carta di identità elettronica rappresenta un'identità digitale di massimo livello di sicurezza. Questo perché ci tengo a sottolinearlo. Non dobbiamo mai dimenticare che bisogna trovare un compromesso tra la sicurezza e l'usabilità, ma senza dimenticare ovviamente che c'è sempre un rischio di fondo, che è quello del furto dell'identità. L'unico strumento oggi che permette di assicurare il massimo livello di sicurezza è questo strumento esterno apposta, che è la carta di identità elettronica, che con i suoi meccanismi di sicurezza garantisce il cittadino contro i furti di identità. Perché esiste il chip integrato, diciamo. Esattamente nel chip integrato, che tra l'altro rispetta degli standard previsti a livello internazionale e risponde a quelle che sono le normative europee, in particolare il regolamento eIDAS 910 del 2014, che è il regolamento che stabilisce l'accesso ai servizi fiduciari o quelle delle banche, ad esempio. Ebbene, la carta di identità elettronica ha tutti quegli elementi di sicurezza che permettono di garantire l'accesso nel massimo livello di sicurezza possibile contro il livello di furto di identità. e soltanto la carta d'identità elettronica possiede. È accaduto che ci fossero dei tentativi di duplicazione o comunque di creazione di carte d'identità false? E, per quel che riguarda la parte del supporto, mai, nel senso che le tecniche di sicurezza che vengono ovviamente utilizzate sulla carta d'identità elettronica oggi prevengono i tentativi apposta di frode. E mi permetto di dire che la carta d'identità elettronica, che è il modello italiano, che poi è stato istituito con un decreto di fine del 2015, in realtà è il documento in questo momento più sicuro ed evoluto a livello europeo e sostituisce il documento più contraffatto a livello europeo, che è la vecchia modello di carta d'identità cartacea. Senta, oltre ad accedere ad alcuni servizi, come lei prima ci ha detto, tramite appunto l'applicazione collegata alla carta d'identità elettronica, che altri usi è possibile fare con questa applicazione? Che altri servizi è possibile utilizzare? Allora, per la carta d'identità elettronica, diciamo, il modello della carta d'identità elettronica oggi contiene questo chip apposta contactless che permette di fare ad esempio l'accesso ai siti della pubblica amministrazione, però lo stesso chip contactless permette di fare anche altre cose. Allora, in primis le faccio un esempio: come Poligrafica abbiamo sviluppato un'app che si chiama Idea, e quest'app permette di andare a leggere le informazioni che sono contenute all'interno del chip e ad esempio andare a verificare che la fotografia che è contenuta nel chip corrisponde con quella che è stampata. Questo perché è importante? Perché ad esempio il processo di cosiddetto adeguato riconoscimento, no? Non so, io apro un conto in banca, mi chiedono un documento, no? Con cui devo testimoniare la mia, diciamo, il possesso del documento, ovviamente che il documento sia autentico. Ebbene, questa semplice applicazione permette di verificare che mi trovo in presenza di una carta autentica, corretta, vera, insomma. E, un'altra applicazione invece che è possibile ad esempio utilizzare è il passaggio a dei varchi automatici. Facciamo un esempio: per passare il varco di una metropolitana oggi ho bisogno di una card posta con un chip contactless. Ebbene, la tecnologia utilizzata sulla carta d'identità elettronica è esattamente la stessa, quindi lì dove naturalmente abilitata potrebbe essere utilizzata per accedere a un varco della metropolitana o ad esempio in sostituzione del badge per poter accedere in ufficio. Ok, no, ma io facevo riferimento, quindi anche l'applicazione può essere utilizzata per fare queste cose? No, l'app in questo momento che è stata realizzata apposta a CID permette di accedere ai servizi della pubblica amministrazione, quindi permette sostanzialmente di utilizzare la carta come identità digitale. Se è possibile, come lei ci ha descritto, caricare sulla carta d'identità elettronica altri strumenti come può essere l'abbonamento alla metropolitana o altri tipi di documenti, altri tipi di carte. Immagino che possa essere ipotizzabile caricare sul chip della carta d'identità elettronica anche altri documenti, che ne so, la patente di guida, cioè diciamo caricare delle credenziali ulteriori che riguardano la mia identità e quindi in prospettiva eliminare altri documenti e averne uno solo, che ne so, codice fiscale, via, patente di guida, via, tutto sulla carta d'identità elettronica. Sì, allora, una precisazione soltanto, la carta d'identità elettronica in realtà non è un contenitore, diciamo apposta, quindi non si possono inserire all'interno della carta d'identità elettronica altre informazioni. Le informazioni che sono messe dentro sono più che sufficienti per effettuare il processo di identificazione. Però è vero quello che dice lei, in realtà molti di quelli che sono, diciamo, dei documenti che noi possediamo non sono dei documenti di identità o di riconoscimento, ma sono spesso abilitazioni. Ebbene, nulla vieta naturalmente di fare la seguente cosa: utilizzare la carta di identità elettronica per dimostrare nel modo più sicuro possibile la mia identità e poi accedere a banche dati che mi permettono di andare a verificare quelle che sono le mie abilitazioni. E preciso ancora, tra l'altro, il codice fiscale è già presente oggi sulla carta di identità elettronica, tant'è vero che nella parte posteriore della carta di identità elettronica è presente il codice fiscale, tanto diciamo scritto, tanto in modalità barcode, e quindi ad esempio è possibile utilizzare la carta di identità elettronica andando in farmacia per poter prendere un medicinale. Parliamo adesso del DESI. Il DESI significa Digital Economy and Society Index, cioè un indice che misura il grado di digitalizzazione dell'economia e della società. I dati europei sono elaborati, vengono elaborati ogni anno dalla Commissione europea Normalmente ne do notizia molto brevemente, ma in questa occasione forse vale la pena di perdere qualche minuto in più, guadagnare qualche minuto in più per fare alcune riflessioni, visto che questo è un momento in cui molti sostengono che proprio sul digitale molte nazioni, Italia compresa, forse soprattutto Italia, visto che siamo un po' più indietro rispetto ad altri, dovremmo spingere sulla digitalizzazione del nostro paese per riagganciare altri paesi, per accelerare la nostra ripresa. Non tanti lo capiscono, ma noi cerchiamo di ripeterlo. Comunque, tornando all'indice che è stato pubblicato, le nazioni, diciamo, prime in classifica sono la Finlandia, la Svezia, l'Olanda, poi potete andare a vedere, abbiamo messo un link su internet, sul nostro sito internet, per vedere questa classifica. Anche Malta, che forse non tanti credono si sia digitalizzata, invece è nelle prime posizioni per grado di digitalizzazione, invece l'Italia perde 3 posizioni perché gli altri paesi hanno corso di più. Come dice Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione nel settore internet e delle telecomunicazioni a Bruxelles. Innocenzo, bentornato a 2024. Salve a tutti. Un primo sguardo su questa analisi che la Commissione europea rilascia con una certa regolarità. Diciamo subito che i principali paesi europei in Europa per performance sugli indici legati alla società digitale e all'economia digitale sono la Finlandia, la Svezia, la Danimarca, l'Olanda, Malta, che forse non a tutti è chiaro quanto sia diventata digitale. E purtroppo invece il nostro paese non solo rimane nelle ultime posizioni, ma peggiora la posizione, Innocenzo. Sì, peggiora, dobbiamo intendere questo peggioramento non tanto nel fatto che stiamo andando indietro, ma nel fatto che gli altri paesi europei corrono più di noi. Quindi noi eravamo 23esimi in questa classifica dell'anno scorso, adesso siamo 25esimi su 28, perché la classifica comprende ancora il Regno Unito. Ci sono, come sempre, punti che tutto sommato ci fanno, non dico proprio sorridere, però un pizzico di ottimismo ce l'abbiamo. Poi invece guardiamo quali sono i problemi reali e molto profondi. C'è qualche dato positivo? Allora, ci sono dati in netto miglioramento per quanto riguarda la connettività, quindi la disponibilità di infrastrutture e di reti tecnologiche, e soprattutto la diffusione della banda ultralarga, perché si vede che la fibra, dove siamo ancora indietro rispetto al resto d'Europa, però sta diffondendosi molto più velocemente, soprattutto negli ultimi 3 anni. C'è anche un notevole miglioramento per quanto riguarda le attività mobili, soprattutto il 5G, perché l'Italia è il paese, è uno dei paesi che ha fatto prima tutto quello che bisognava fare per diffondere per far partire i servizi 5G, quindi ha fatto le aste, ha reso disponibile lo spettro, ha fatto l'esperimentazione, infatti alcuni operatori stanno già cominciando a offrire servizio commerciale. Sì, tra l'altro su questo, anche se andiamo per pochi minuti fuori tema, ricordiamo che ad esempio grandi paesi come la Francia non ha ancora fatto la gara per il 5G, giusto? Infatti, neanche il Belgio, neanche l'Olanda. Quindi, è vero. Questo è un dato interessante. Quindi potremmo dire, se vogliamo rimanere un attimo sulla diffusione della connettività in banda ultralarga, quindi in particolare fibra, fiber to the home, potremmo dire che questa situazione di concorrenza, con un dibattito molto complesso su quello che ne sarà nei prossimi anni dell'ecosistema nazionale, però potremmo dire che la situazione attuale ha favorito o comunque ha accelerato gli investimenti e la diffusione della banda larga. Sì, la Commissione ritiene che proprio negli ultimi 3 anni vi sia stato una forte accelerazione nella installazione e uso di fibra, quindi di infrastruttura tecnologicamente più avanzata, che pian pianino comincia a sostituire la vecchia infrastruttura in rame e in parte si muove in alternativa ad altre tecnologie, magari meno performanti, ma che possono essere utili a seconda delle condizioni del territorio. Pensiamo ad esempio all'accesso attraverso wireless con delle antenne, se non addirittura il satellite. Certo, fixed wireless access. Ricordiamo anche, è giusto per dovere di cronaca ricordarlo, che qui stiamo parlando di diffusione e disponibilità, ma non necessariamente di case collegate, giusto? Sì, un conto è la copertura dove comunque il nostro paese è arrivato al 30% delle unità abitative rispetto al 44% della media europea. Dopodiché l'utilizzo vero e proprio, quindi gli abbonamenti, sono un po' rallentati per varie ragioni. Quindi c'è infrastruttura disponibile ma non utilizzata dalla popolazione. Certo, per varie ragioni, alcune riguardano le regole e i regolamenti, alcune riguardano i condomini e gli amministratori di condominio, visto che riceviamo molte segnalazioni di amministratori che non permettono di cablare i condomini, pur essendo disponibile un pozzetto magari con la fibra davanti casa, altri motivi insomma ci sono. Comunque questo è un tema ed è in qualche modo un problema. Ecco, se guardiamo invece ad altri punti, visto che questo indice ci racconta dell'economia digitale, ma anche della società digitale, cos'altro è bene che guardiamo a casa nostra? Allora, la parte di questa statistica dove l'Italia ha proprio la maglia nera è quella dell'utilizzo dei servizi internet e anche nelle capacità digitali. Ci può sorprendere un po' perché noi abbiamo l'impressione di essere una popolazione che usa internet, perché gli smartphone, ad esempio, sono molto diffusi. In verità, in base alle statistiche, veniamo a sapere che il 17% della popolazione non ha mai utilizzato internet, rispetto al 9% della media europea. Il 17% è tanto. Se vogliamo fare il raffronto con i paesi nordici, lì questa ignoranza digitale è attorno al 3-4%. In parte potremmo dare la colpa di questa situazione all'età media più elevata della popolazione italiana. Però non dimentichiamo che questi dati sono raccolti su un campione che va dai 16 ai 74 anni di età. Quindi vuol dire che questa ignoranza digitale è comunque molto diffusa in fasce della popolazione non più giovanissima, ma che ancora sono pienamente parte delle attività economiche e sociali. Altri dati, non proprio del DESI, ma che sono richiamati in altri studi, ci dicono che il 40% della popolazione non ha un laptop e non ha un computer a casa. E questo vuol dire molto poi nell'utilizzo dei servizi un pochino più innovativi. Ci viene da pensare che una buona parte della popolazione italiana ha lo smartphone, però lo utilizza per poche cose e molto semplici. Quindi lo utilizza per andare nei social, lo utilizza per delle chiamate, ad esempio per quanto riguarda le videochiamate, sono molto diffuse in Italia in base a questi dati, addirittura più che nel resto d'Europa, quindi il 65% della popolazione rispetto alla media del 60% europeo. E poi gli italiani utilizzano, in base anche alla media europea, molta musica. Entertainment e tutto ciò con cui ci si può divertire via internet. Però quando si vanno a vedere dei servizi più sofisticati, soprattutto legati all'utilizzo economico, i dati degli italiani crollano nelle classifiche. Quindi se pensiamo ai servizi di bancari, al commercio elettronico, ai corsi online, alla messa in vendita di beni, lì abbiamo numeri bassissimi. Quindi vuol dire che l'italiano non ha capito quali sono le opportunità che l'economia digitale può offrire. Quindi potremmo dire sicuramente la pubblica amministrazione e anche molte aziende hanno delle colpe, delle responsabilità molto profonde e molto gravi, ma come diceva Kennedy, non pensare a quello che lo Stato può fare per te, ma a quello che tu puoi fare per lo Stato e la società. Effettivamente è così, perché in verità i dati di questo indice rivelano che l'offerta di servizi digitali da parte della pubblica amministrazione sono comunque più che decenti, quindi non vi è un ritardo da parte della pubblica amministrazione italiana, ma vi è un ritardo nell'utilizzo di questi servizi da parte della popolazione. Quindi c'è un'offerta di servizi pubblici digitali, ma non c'è un utilizzo da parte dalle persone. Quindi è come se la cultura digitale fatichi ad essere capita dalla popolazione per motivi inerenti alla stessa, cioè non necessariamente bisogna dare la colpa al governo per questo. Bene, grazie ad Innocenzo Genna per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Arrivederci. Ed è tutto per questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Quella che avete ascoltato è la nostra versione super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Passate parola, fate ascoltare 2024 ai vostri amici, ai vostri parenti, ai colleghi di lavoro, ai politici, molto importante, locali, meno locali, nazionali, quelli che conoscete, se li conoscete. Noi ci salutiamo, io sono Enrico Pagliarini, come sempre vi ricordo che potete scrivermi a 2024@radio24.it. Adesso Paolo Corleoni mette la sigla finale, noi ci risentiamo la prossima settimana.